September on fire. September on fire. September on fire. September on fire. E la ricerca della felicità va dove ti porta il cuore, in giro per la città, al di là di ogni logica più estrema, al di là di ogni previsione terrena. E questo è il mese, facciamo sbocciare fiori d'arancio giù da quell'altare. E se andiamo giù, ci rialziamo insieme. Quando andiamo al sud, ci sentiamo bene. Ed oggi sigilliamo un patto quotidiano, il nostro dirsi ti amo. Promesse di chi siamo e quella nell'altito. Peserà come un macigno, ma il cuore è un diamante racchiuso in uno scrigno. Una cassaforte che custodisce debolezze, e la necessità rivela certezze. E che l'unione fa la forza sempre, soprattutto oggi, il 7 di settembre. Finché morti non vi separi, settembre on fire. Finché sarà forte il vostro domani, settembre on fire. Finché morti non vi separi, settembre on fire. Finché sarà forte il vostro domani, settembre on fire. Amare una febbre dietro luce d'ombre, freddi come il ghiaccio fino al primo abbraccio. E poi ci sogniamo per quello che siamo. Amiamo ed ancora amiamo, la vita è meravigliosa, andiamo e continuiamo ad alimentare la nostra felicità, perché sappiamo che c'è complicità. Dopo anni di preparazione, oggi giungiamo ad una conclusione, che il nostro amore sarà per sempre. Scriviamo la storia il 7 di settembre. Finché morte non vi separi, settembre on fire. Finché sarà forte il vostro domani, settembre on fire. Finché morte non vi separi, settembre on fire. Finché sarà forte il vostro domani, settembre on fire. Finché sarà forte il vostro.